mi chiamo Ivan Setti di cognome, l'azienda è omonima, ufficialmente l'azienda è intestata a me. Lavoro con Ivaldo, lavoriamo insieme praticamente da diversi anni e siamo in campi aperti da 5 anni. Perché siamo in campi aperti? Siamo in campi aperti perché noi crediamo in certe cose, in valori, vabbè, adesso al di là dei luoghi comuni, che è inutile che li stia a ripetere, quello che noi facciamo più che agricoltura, vendere o comprare prodotti, quello che noi facciamo è politica. È tutto politica ambientale, ma anche politica sociale allo stesso tempo. E ovviamente ormai tutti dicono che il pianeta è in forte crisi, anzi se non interveniamo nell'immediato non ci sarà un futuro, non ci sarà speranza per le generazioni più piccole. E quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Campi aperti, secondo me, dà ancora una speranza in questa marea nera. Era in tutti i sensi e sì, crediamo molto in questo. Sul tema dell'agricoltura sostenibile, quindi io penso a casa mia, dove ci sono alcune particolarità di alberi e di piante che stanno andando perdute in qualche modo, no? Ci sono alcune specialità che sono di questa regione, di Bologna, della zona, e cioè, che insomma, che magari voi avete nella vostra azienda e che altrimenti potrebbero andare perdute o comunque non fanno parte della grande distribuzione? Dunque, nello specifico varietà antiche, non tipo mele o pere, così noi non ci siamo specializzati. Ho delle varietà antiche di prugne e qualcosa come durone di vignola. In ogni caso è un'agricoltura che fa un misto tra appunto varietà nuove e varietà antiche, senza essere specializzato, appunto, come dicevo, perché è comunque un discorso un po' complicato. Facendo orto soprattutto, l'impegno è veramente tanto. I frutticoltori, quelli che fanno solo frutticoltura, riescono a integrare anche varietà molto buone, molto antiche, non si trovano più e comunque hanno anche necessità di meno trattamenti fitosanitari. No, perché nel senso il tema è anche, cioè io la penso da consumatore o coproduttore, come sarebbe come all'interno dei campi aperti, quindi c'è, cioè, comunque uno dei temi è anche la grassissima standardizzazione poi dei prodotti che uno compra. Però questo è soprattutto, secondo me, ecco, riguarda molto alle tecniche culturali, alle tecniche di coltivazione o alle tecniche di allevamento per quanto riguarda gli animali. L'eccessiva industrializzazione, sì, è funzionale con le nuove varietà, è vero, però è quello essenzialmente il problema, a mio parere. Poi c'è il discorso delle varietà antiche, che vanno assolutamente preservate e anzi in alcuni casi possono sostituire le nuove varietà. Posso fare un piccolo esempio con la coltivazione di cereali. In alcuni punti, in alcuni posti, hanno sperimentato un mix di varietà, magari non funzionali alle grandissime produzioni, però che insieme, mescolate, riescono a contenere alcune problematiche, tipo le malerbe, perché alcune hanno radici più basse, più alte, più profonde, più estese. Alcune nascono prima, alcune nascono dopo, e quindi anche l'insorgenza di patologie fungine, per esempio, perché magari qualcuno è più sensibile e si ammala, però viene sostituita dall'altra varietà che è mescolata in mezzo, che è meno sensibile e quindi prende sopravvento, e quindi hai comunque una produzione costante e senza l'utilizzo di sostanze attive, chimiche o quant'altro. Parlando invece di campi aperti, stiamo festeggiando il 16° anno di età, se non mi sbaglio, ed è il secondo anno di festa. Sì. Voi dicevate siete dentro da campi aperti da 6 anni, quindi insomma, com'è cambiata Campi Aperti in questi 6 anni? Com'è cambiato il rapporto con la cittadinanza da una parte e con l'amministrazione dall'altra, se non sono andati insieme? Qua mi trovo un po' in difficoltà perché io seguo nell'azienda un altro filone, e il mio socio soprattutto, che viene a Bologna, frequenta Bologna e partecipa alle assemblee e partecipa a tutti gli altri colleghi di Campi Aperti. E quello poco che io posso osservare è che comunque la risposta pian piano c'è, ma c'è da questo crescendo dall'inizio, da quando è nata Campi Aperti fino a oggi. E ovviamente il rapporto con l'amministrazione non può essere positivo, non sarà mai positivo, e secondo me con nessun tipo di amministrazione, perché quello che noi facciamo appunto è una lotta politica, sì, possiamo definirla così, comunque sia Il nostro mestiere è una lotta quotidiana e politica, perché non c'è un'amministrazione che non favorisca alcuni interessi economici. Gli interessi economici qua in Emilia Romagna sappiamo tutti quali sono, a livello del cibo. Abbiamo la Food Valley, quindi ho già detto tutto, poi c'è Nato Fico, sono le cooperative di distribuzione, c'è lo spreco alimentare, ci sono tutte cose che noi contrastiamo e che comunque il potere politico non osteggia di certo, anzi, tutt'altro.